È il secondo forum imprenditoriale tra Italia e Serbia in poco più di un anno. Dopo il primo evento svolto a Belgrado, la Farnesina ha scelto Trieste per ospitare l'appuntamento, perché la città è un ponte naturale verso i Balcani, ha spiegato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ribadito l'impegno italiano per l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea. Senza i Balcani occidentali l'Europa non è completa, ha aggiunto dal palco del centro congressi in Porto Vecchio Miloš Vučević, il primo ministro della Serbia, che poi ha proseguito parlando delle opportunità di investire nel suo paese, dove sono presenti oltre 1000 imprese italiane, tra cui le due principali banche. L'interscambio commerciale è di 4 miliardi e mezzo, tra i settori di maggior interesse l'agricoltura e le infrastrutture, con un occhio alla transizione verde, prevista nel programma una sessione di incontri tra aziende, 170 italiane e 78 serbe, diversi gli accordi alla firma, tra cui un finanziamento di cassa depositi e prestiti di 100 milioni al principale operatore energetico serbo, IPS, per aiutarlo ad affrancarsi dalla dipendenza dal carbone. Altro tema tornato nei discorsi e nelle dichiarazioni alla stampa, ne ha parlato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, è il ruolo dei Balcani nell'accorciamento delle catene del valore, con il riavvicinamento delle produzioni dall'Asia per ragioni sia geopolitiche sia logistiche.